Il libro che fra poco ascolterete è la testimonianza di un'esperienza sconvolgente. Questo testo ci ha fatto capire qualcosa della natura umana che prima non sapevamo, non potevamo soltanto supporre. I fatti raccontati sono tutti veri, non c'è niente di inventato. Sono pagine nate dalla storia. Chi le conosce è come se fosse entrato in un tempio. Primo Levi fu catturato dalla milizia fascista il 13 dicembre 1943. Dopo un breve transito nel campo di smistamento di Fossoli, nel febbraio dell'anno successivo venne deportato ad Auschwitz, in una sezione staccata, a Buna-Monowitz, per la precisione, e qui restò fino all'arrivo dei russi, nel gennaio del 45. Lo salvò una precaria ma essenziale conoscenza della lingua tedesca e una buona dose di fortuna. Al ritorno scrisse queste pagine straordinarie che nel 1947 l'editore Einaudi dapprima rifiutò. Se questo è un uomo fu pubblicato da un piccolo editore torinese, da Silva. Ne furono vendute solo 1400 copie. Primo Levi dovette attendere fino al 1958 per vedere nuovamente pubblicato il suo libro, stavolta presso Einaudi. Da allora in poi le edizioni si sono susseguite l'una all'altra e il libro è stato tradotto in molti paesi fino a diventare un classico nella letteratura del Novecento. Cos'è che distingue se questo è un uomo da tutte le altre testimonianze sui campi di concentramento nazisti? Io direi innanzitutto lo stile, imperturbabile e solenne. L'autore aveva, lo sappiamo, una formazione scientifica, era un chimico, ma questo non basta a spiegare la potenza espressiva che è riuscito a raggiungere sulla pagina. C'è un distacco razionale rispetto alla materia incandescente che resta formidabile e ancora oggi lascia stupefatti. Primo Levi ha conquistato quella distanza con uno scarto lacerante. È come se avesse voluto ricacciare le lacrime in gola prima di scrivere, ma proprio da lì nascono l'indignazione e la protesta, i tesori etici del testo, e questo conferisce a ciò che racconta un equilibrio di giudizio che sembra sempre sul punto di crollare, e invece fa restare lucido lo scrittore, e lo rende perfino spietato nell'attribuire le responsabilità e nell'evidenziare le colpe. Vi renderete subito conto che ogni capitolo rappresenta un piccolo mondo. Il viaggio ferroviario, l'organizzazione del lager, le selezioni, i mestieri per sopravvivere, l'infermeria, i compagni di sventura. Si ha l'impressione che tutto venga narrato, è proprio il caso di dirlo, con il microfono in mano. È un testo frammentario eppure compatto, unito da un respiro unico. Credo sia un libro ideale per essere letto ad alta voce, alla radio. Dovrebbe essere declamato. Lo dico anche per esperienza diretta, visto che spesso mi capita di leggerlo in classe ai miei alunni. Con questo libro è facile catturare la loro attenzione. Anche più indisciplinati si mettono in riga. E non potrebbe essere altrimenti. Lo scrittore sembra uno speaker fra le rovine del XX secolo. Dietro ogni riga emerge la motivazione profonda che ha spinto l'autore a prendere la parola. Perché lo ha fatto? Lo ha fatto affinché quelli che verranno dopo, cioè noi, non dimentichino ciò che è accaduto. Fra i tanti episodi che sono entrati nella storia della letteratura contemporanea, ne voglio ricordare solo due. L'esame di chimica che Primo Levi sostenne nella baracca sotto lo sguardo della SS incaricata di giudicarlo, e la richiesta dell'internato, già selezionato per la camera a gas, il quale pretende doppia razione di zuppa e lo ricorda al capò che se n'era dimenticato. Sono brani che per la loro forza vanno oltre la letteratura. Buon ascolto. Il viaggio. Ero stato catturato dalla milizia fascista il 13 dicembre 1943. Avevo 24 anni, poco senno, nessuna esperienza e una decisa propensione, favorita dal regime di segregazione a cui da 4 anni le leggi razziali mi avevano ridotto, a vivere in un mio mondo scarsamente reale. popolato da civili fantasmi cartesiani, da sincere amicizie maschili e da amicizie femminili esangui. Coltivavo un moderato e astratto senso di ribellione. Non mi era stato facile scegliere la via della montagna e contribuire a mettere in piedi quanto, nell'opinione mia e di altri amici di me poco più esperti, avrebbe dovuto diventare una banda partigiana affiliata a Giustizia e Libertà. Mancavano i contatti, le armi, i quattrini e l'esperienza per procurarseli. Mancavano gli uomini capaci ed eravamo invece sommersi da un diluvio di gente squalificata, in buona e in mala fede, che arrivava lassù dalla pianura in cerca di un'organizzazione inesistente, di quadri, di armi, o anche solo di protezione, di un nascondiglio, di un fuoco, di un paio di scarpe. A quel tempo non mi era stata ancora insegnata la dottrina che dovevo più tardi rapidamente imparare in lager, e secondo la quale primo ufficio dell'uomo è perseguire i propri scopi con mezzi idonei, e chi sbaglia paga. Per cui non posso che considerare conforme a giustizia il successivo svolgersi dei fatti. 3 centurie della milizia, partite in piena notte per sorprendere un'altra banda, di noi ben più potente e pericolosa, annidata nella valle contigua, irruppero in una spettrale alba di neve nel nostro rifugio e mi condussero a valle come persona sospetta. Negli interrogatori che seguirono, preferii dichiarare la mia condizione di cittadino italiano di razza ebraica, poiché ritenevo che non sarei riuscito a giustificare altrimenti la mia presenza in quei luoghi troppo appartati anche per uno sfollato, e stimavo, a torto come si vide poi, che l'ammettere la mia attività politica avrebbe comportato torture e morte certa. Come ebreo, venni inviato a Fossoli, presso Modena, dove un vasto campo di internamento già destinato ai prigionieri di guerra inglesi e americani andava raccogliendo gli appartenenti alle numerose categorie di persone non gradite al neonato governo fascista repubblicano. Al momento del mio arrivo, e cioè alla fine del gennaio 1944, gli ebrei italiani nel campo erano 150 circa, ma entro poche settimane il loro numero giunse a oltre 600. Si trattava per lo più di intere famiglie, catturate dai fascisti o dai nazisti per loro imprudenza o in seguito a delazione. Alcuni pochi si erano consegnati spontaneamente, o perché ridotti alla disperazione dalla vita randagia, o perché privi di mezzi, o per non separarsi da un congiunto catturato, o anche, assurdamente, per mettersi in ordine con la legge. V'erano inoltre un centinaio di militari jugoslavi internati e alcuni altri stranieri, considerati politicamente sospetti. L'arrivo di un piccolo reparto di SS tedesche avrebbe dovuto far dubitare anche gli ottimisti. Si riuscì tuttavia a interpretare variamente questa novità, senza trarne la più ovvia delle conseguenze, in modo che, nonostante tutto, l'annuncio della deportazione trovò gli animi impreparati. Il giorno 20 febbraio i tedeschi avevano ispezionato il campo con cura, avevano fatte pubbliche e vivaci rimostranze al commissario italiano per la difettosa organizzazione del servizio di cucina e per lo scarso quantitativo della legna distribuita per il riscaldamento. Avevano perfino detto che presto un'infermiera avrebbe dovuto entrare in efficienza, ma il mattino del 21 si seppe che l'indomani gli ebrei sarebbero partiti, tutti, nessuna eccezione. Anche i bambini, anche i vecchi, anche i malati. Per dove? Non si sapeva. Prepararsi per 15 giorni di viaggio. Per ognuno che fosse mancato all'appello, 10 sarebbero stati fucilati. Soltanto una minoranza di ingenui e di illusi si ostinò nella speranza. Noi avevamo parlato a lungo coi profughi polacchi e croati e sapevamo che cosa voleva dire partire. Nei riguardi dei condannati a morte, la tradizione prescrive un austero cerimoniale, atto a mettere in evidenza come ogni passione e ogni collera siano ormai spente, e come l'atto di giustizia non rappresenti che un triste dovere verso la società, tale da poter accompagnarsi a pietà verso la vittima da parte dello stesso giustiziere. Si evita perciò al condannato ogni cura estranea, gli si concede la solitudine e, ove lo desideri, ogni conforto spirituale. Si procura insomma che egli non senta intorno a sé l'odio o l'arbitrio, ma la necessità e la giustizia, e insieme con la punizione, il perdono. Ma a noi questo non fu concesso, perché eravamo troppi, e il tempo era poco, e poi, finalmente, di che cosa avremmo dovuto pentirci, e di che cosa venir perdonati? Il commissario italiano dispose dunque che tutti i servizi continuassero a funzionare fino all'annunzio definitivo. La cucina rimase perciò in efficienza, le corvée di pulizia lavorarono come di consueto e perfino i maestri e i professori della piccola scuola tennero lezione a sera, come ogni giorno. Ma ai bambini quella sera non fu assegnato compito. E venne la notte, e fu una notte tale che si conobbe che occhi umani non avrebbero dovuto assistervi e sopravvivere. Tutti sentirono questo. Nessuno dei guardiani, né italiani né tedeschi, ebbe animo di venire a vedere che cosa fanno gli uomini quando sanno di dover morire. Ognuno si congedò dalla vita nel modo che più gli si addiceva. Alcuni pregarono, altri bevvero oltre misura, altri si inebriarono di nefanda ultima passione. Ma le madri vegliarono a preparare con dolce cura il cibo per il viaggio e lavarono i bambini e fecero i bagagli e all'alba i fili spinati erano pieni di biancheria infantile stesa al vento ad asciugare, e non dimenticarono le fasce, i giocattoli e i cuscini e le 100 piccole cose che esse ben sanno e di cui i bambini hanno in ogni caso bisogno. Non fareste anche voi altrettanto? Se dovessero uccidervi domani col vostro bambino, voi non gli dareste oggi da mangiare? Nella baracca 6A abitava il vecchio Gattegno, con la moglie e i molti figli e i nipoti e i generi e le nuore operose. Tutti gli uomini erano falegnami. Venivano da Tripoli, attraverso molti e lunghi viaggi, e sempre avevano portati con sé gli strumenti del mestiere e la batteria di cucina e le fisarmoniche e il violino per suonare e ballare dopo la giornata di lavoro, perché erano gente lieta e pia. Le loro donne furono le prime fra tutte a sbrigare i preparativi per il viaggio, silenziose e rapide, affinché avanzasse tempo per il lutto. E quando tutto fu pronto, le focacce cotte, i fagotti legati, allora si scalzarono, si sciolsero i capelli e disposero al suolo le candele funebri, e le accesero, secondo il costume dei padri, e sedettero a terra, a cerchio, per la lamentazione, e tutta notte pregarono e piansero. Noi sostammo numerosi davanti alla loro porta, e ci discese nell'anima, nuovo per noi, il dolore antico del popolo che non ha terra, il dolore senza speranza dell'esodo, ogni secolo rinnovato. L'alba ci colse come un tradimento, come se il nuovo sole si associasse agli uomini nella deliberazione di distruggerci. I diversi sentimenti che si agitavano in noi, di consapevole accettazione, di ribellione senza sbocchi, di religioso abbandono, di paura, di disperazione, confluivano ormai, dopo la notte insonne, in una collettiva incontrollata follia. Il tempo di meditare, il tempo di stabilire erano conchiusi, e ogni moto di ragione si sciolse nel tumulto senza vincoli su cui, dolorosi come colpi di spada, emergevano in un lampo, così vicini ancora nel tempo e nello spazio, i ricordi buoni delle nostre case. Molte cose furono allora fra noi dette e fatte, ma di queste è bene che non resti memoria. Con l'assurda precisione a cui avremmo più tardi dovuto abituarci, i tedeschi fecero l'appello. Alla fine, «Wie viel Stück?» domandò il maresciallo, e il caporale salutò di scatto e rispose che i pezzi erano 650 e che tutto era in ordine. Allora ci caricarono sui torpedoni e ci portarono alla stazione di Carpi. Qui ci attendeva il treno e la scorta per il viaggio. Qui ricevemmo i primi colpi e la cosa fu così nuova e insensata che non provammo dolore nel corpo né nell'anima. Soltanto uno stupore profondo. Come si può percuotere un uomo senza collera? I vagoni erano 12 e noi 650. Nel mio vagone eravamo 45 soltanto, ma era un vagone piccolo. Ecco dunque, sotto i nostri occhi, sotto i nostri piedi, una delle famose tradotte tedesche, quelle che non ritornano, quelle di cui, fremendo e sempre un poco increduli, avevamo così spesso sentito narrare. Proprio così, punto per punto, vagoni merci, chiusi dall'esterno, e dentro uomini, donne, bambini, compressi senza pietà, come merce di dozzina, in viaggio verso il nulla, in viaggio all'ingiù, verso il fondo. Questa volta dentro siamo noi. Tutti scoprono, più o meno presto nella loro vita, che la felicità perfetta non è realizzabile, ma pochi si soffermano invece sulla considerazione opposta, che tale è anche una infelicità perfetta. I momenti che si oppongono alla realizzazione di entrambi i due stati limite sono della stessa natura, conseguono dalla nostra condizione umana, che è nemica di ogni infinito. Vi si oppone la nostra sempre insufficiente conoscenza del futuro, e questo si chiama in un caso speranza e nell'altro incertezza del domani. Vi si oppone la sicurezza della morte, che impone un limite a ogni gioia, ma anche a ogni dolore. Vi si oppongono le inevitabili cure materiali, che, come inquinano ogni felicità duratura, così distolgono assiduamente la nostra attenzione dalla sventura che ci sovrasta e ne rendono frammentaria e perciò sostenibile la consapevolezza. Sono stati proprio i disagi, le percosse, il freddo, la sete, che ci hanno tenuti a galla sul vuoto di una disperazione senza fondo, durante il viaggio e dopo. Non già la volontà di vivere, né una cosciente rassegnazione, che pochi sono gli uomini capaci di questo, e noi non eravamo che un comune campione di umanità. Gli sportelli erano stati chiusi subito, ma il treno non si mosse che a sera. Avevamo appreso con sollievo la nostra destinazione. Auschwitz. Un nome privo di significato allora e per noi, ma doveva pur corrispondere a un luogo di questa terra.